un mesetto che non mi sentivo, dopo vado in astinenza, ho bisogno di chiamarvi. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Mercurio redazione, Pietro la corte regia, 800 24 00 24, non serve che vi fate venire l'astinenza, noi restiamo qui anche durante le vacanze di Natale. Potete scriverci 349-238-6666, sms, whatsapp. È venuto a trovarci il grandissimo Franco Ordine. Ciao Franco. Eccomi qua, auguri a tutti ragazzi. Allora, esame di canzone popolare calabrese. Cos'è questa? Che non è però la musica popolare calabrese, quella più celebre, lo sappiamo, l'abbiamo cercata per tutta la mattina. Ma questa è una tarantella. Una classica, direi proprio doc tarantella calabrese. Invece i calabresi ci offrono altro dal punto di vista musicale. Sì. Ci offrono anche questa vicenda qui, da cui partiamo, che insomma è piaciuta a tanti sui giornali, giustamente. Io penso che queste cose ovviamente nel sud Italia capitino tutto l'anno, però è giusto che abbia avuto questo spazio, la storia dello Sporting Locri, questo club femminile di calcio a 5 ritirato dalla Serie A per le minacce ricevute, che è diventata una vicenda carica di simbologia. E insomma si stanno muovendo un po' tutti, perché il 10 gennaio si è in campo e il presidente ritorni sui suoi passi dopo aver annunciato il ritiro. Saluto anche per Luigi Pardo, ciao Pier. Come va? Bene, bene, bene, tu Cenone, tutto a posto? Sì, quale dei vari? Perché qua è tutto un Cenone, capito? Franzone, tutto un Cenone, una cosa. Però insomma, diciamo, stamattina mi sono pesato e... Anche con l'azionone? Sì, con l'azionone un po' meno. Però mi sono pesato stamattina e devo dire che ancora la bilancia, diciamo, quantomeno non l'ho sfondata. Quindi ancora la bilancia è viva. Che poi l'arte di pesarsi è quello che accadrà in questi giorni, credo, un po' in tutti i ritiri. Ho visto anche Benitez ha detto che la prima cosa che faceva appena arrivato nel ritiro del Real Madrid li avrebbe messi tutti sulla bilancia. Pensavo che si pesasse lui. Lui dovrebbe mettersi sulla bilancia. No, però fatemi tornare all'argomento serio da cui siamo partiti. Mi fate sentire Ferdinando Armeni, che è il presidente dello Sporting Locri, quello che ha annunciato, dopo aver ricevuto le minacce, la necessità di ritirare la squadra, perché così non si poteva andare avanti. Armeni. Questo ha un attimino destabilizzato quello che possa essere il pensiero e mandato in tilt logicamente da genitori, da padri di famiglia, un po' tutto quanto. Ci hanno fatto perdere la serenità di poter operare per la squadra e per tutto il resto. Oh, io non so che pensiero avete fatto voi ieri e oggi leggendo questa vicenda, Franco. Il pensiero che siamo, come dire, ancora una volta alle prese con un problema atavico nel quale, secondo me, c'è di mezzo più che la vicenda in sé, e cioè il fatto che questo abbiano ricevuto minacce eccetera, ma c'è il problema complessivo dell'atteggiamento e del comportamento della famosa comunità civile, perché è da lì che deve arrivare la risposta. Se questo presidente, se lo staff dei tecnici, se i componenti della squadra femminile del Locri avessero avvertito da parte della popolazione, da parte degli amici, da parte dei conoscenti, dei fidanzati, degli amanti, degli zii e dei parenti tutti, una calda atmosfera di solidarietà, probabilmente non si sarebbe arrivato a questo punto. Ed è qui che si gioca, secondo me, anche un po' il futuro della generazione, non dico calabrese perché sarebbe ingiusto limitarla lì, ma diciamo anche, essendo io non nato a Vipiteno ma a Foggia, di tutto il sud. Sì, perché queste poi sono storie simili, diciamo, purtroppo, a tante altre che accadono soprattutto nel sud Italia. Pier, adesso non è per stare a circoscrivere geograficamente, però spesso capitano e non vengono magari raccontate, non escono alla ribalta come questa di Locri, che ripeto diventa un simbolo. Tra l'altro io questo discorso in generale, no, di nord e sud, penso, al di là del fatto che poi tante volte si tende a generalizzare perché anche al nord purtroppo ci sono infiltrazioni molto molto fastidiose, quindi insomma non è che da una parte sia, no, la Svizzera intesa come posto più, più tranquillo e sereno del mondo, e dall'altra parte sia invece il Bronx. Non è così, quindi la generalizzazione è sbagliata in assoluto. Ma poi io credo anche, conoscendo tantissime persone del sud, andando spessissimo al sud con enorme piacere ed enorme magia, io sento questa magia in maniera particolare, che poi le prime vittime di questo tipo di situazioni sono proprio le persone per bene che vivono in realtà di quel tipo, no? E che fanno fatica, ad esempio in questo caso, a giocare una partita di pallone e a continuare un campionato. Quindi a maggior ragione c'è bisogno di stargli più vicini. Poi ha ragione da uomo del sud Ordine quando sottolinea, insomma, che deve essere un'occasione di rinascita per tutti, cioè che la famosa società civile deve dare una risposta. Sì, anche se io non so, ve la metto come provocazione, in questa mobilitazione del giorno dopo c'è sempre anche un tasso di ipocrisia, di paraculismo, non so come cosa no. Ne pensate voi. Sì, c'è l'ipocrisia, però oggi i giornali sono pieni di chi è pronto però a mobilitarsi. C'è l'abbiamo detto prima nel GR, c'è la nazionale parlamentari femminili che vuole sfidare a calcio le ragazze dell'Ocri. Sì, ma al di là di questo, che sono le solite occasioni per mettersi in mostra, per guadagnare qualche titolo sul giornale e qualche citazione in una trasmissione televisiva, io penso invece che non è di questo che abbiamo bisogno. Avremmo bisogno del fatto che per strada le ragazze di Locri devono trovare e incontrare diciamo la solidarietà, l'appoggio, il sostegno, l'affetto, la coccola, la comprensione. Entrando dal panettiere, andando al cinema, oppure andando in edicola a comprare il giornale, è lì che si forma come dire, quella sorta di protezione civile che deve essere il grande alleato del riscatto del sud, perché è su quello che giochiamo la partita. Sì, cosa che non sempre avviene. Poi succede anche che qualcuno, come un amico che non si firma, ma lo leggiamo lo stesso, scrive al 349-238-6666: ah, ma perché lo Sporting Locri si ritira, è calcio a 5, ma chi se ne frega. Che poi è il discorso che magari fanno tanti in queste ore, pensando che è calcio femminile. No, ma voglio dire, il problema non è chi se ne frega, perché è evidente che dal punto di vista, diciamo, tra virgolette, squisitamente sportivo, questo ritiro non incide sulle sorti dello sport nazionale. Ma non è dello sport che stiamo parlando, ragazzi. Infatti, stiamo parlando di costume. Mi sembra, hai fatto bene a sottolinearlo, ma è la risposta che do anch'io a quell'ascoltatore. Non stiamo parlando di risultati sportivi, di agonismo, di eccellenza dell'agonismo. Stiamo parlando della libertà, stiamo parlando dell'opportunità, stiamo parlando della speranza, stiamo parlando della passione, stiamo parlando di quello che poi in fondo è lo sport, lo è nella maniera più autentica. Quando uno comincia, quando un bambino di 2 anni vede un pallone, gli corre appresso, insomma, senza diventare retorici, ma è esattamente così. Poi è ovvio che noi ci casiamo, ci appassioniamo con la Champions League, la Premier League o la Serie A, però è evidente, è assolutamente evidente. Nel mio caso anche la Lega Pro. Bravo. Girone C, seconda in classifica, la Casertana. Ma poi tutti siamo reduci da giorni in cui ci siamo appassionati della Serie B, che era l'unica che giocava intelligentemente, ma poi magari ne parliamo anche. Bravissimo Bodi. Con numeri, e oggi erano pubblicati su un po' su tutti i giornali, che testimoniano come c'è voglia di calcio anche nelle feste di Natale. Solo i nostri della Serie A non lo capiscono. Poi mi dite cosa ne pensate dell'idea di Tavecchio di mandar giù la nazionale di calcio a 5 femminile come segno di solidarietà. Secondo me, se un segno deve essere dato, allora mandiamoci giù la nazionale, se davvero deve diventare il simbolo di qualcosa che non ci si arrende. La nazionale era già andata a Rizziconi precedente sui campi confiscati, no? In Calabria, alla 'Ndrangheta, a giocare, mi pare 4-5 anni fa. È stata Prandelli. C'era Prandelli CT. È sempre con Prandelli, andò a Scampia. Quindi voglio dire, questo tipo di sensibilità c'è, e devo dire la verità, questo è un discorso poi anche più politico, che Tavecchio sono convinto che abbia da questo punto di vista sensibilità, insomma, al netto delle gaffe, tante, troppe, e alcune delle quali assolutamente intollerabili, però poi mi sembra che, insomma, da questo punto di vista non mi sorprende, ecco. Ma che non solo, non solo da questo punto di vista, io ho l'impressione che anche lì, al di là del fatto che le abbia sparate grosse, dal punto di vista poi squisitamente operativo, se c'è stato un presidente federale che ha in qualche modo mosso un po' le acque, provveduto a qualche riforma in un ambiente, in un settore nel quale c'era stato per motivi diversi immobilismo assoluto, tutto questo è quello di Tavecchio. Sì, 800 24 00 24. Al volo, anche sì, in qualche modo pungolato dalla voglia di dimostrare di essere qualcosa di diverso. Certo, nel senso che, lui era partito talmente male, partito proprio con l'Everest a scalare, e quindi secondo me un certo tipo di atteggiamento è nato anche per questo, per provare a smettere su tutta una serie di stereotipi e di etichette, fermo restando che poi insomma questo non cancella le gaffe. Per fare il presidente federale dovrebbe avere secondo me una maggiore attenzione anche al linguaggio e alle sue esternazioni, soprattutto quelle pubbliche. Quelle private secondo me sono sempre degli agguati. C'era anche quella sulle donne handicappate, tra l'altro registrata mesi e mesi prima della famosa estate delle elezioni. Ce la ricordiamo quella, se la sbobbiniamo, come si dice in gergo, insomma stiamo parlando veramente, lì stiamo parlando del nulla, cioè stiamo parlando di una dell'utilizzo di un aggettivo che probabilmente nella generazione di Tavecchio era assolutamente normale, 20 anni fa era normale, oggi bisogna con quella parola lì fare infinitamente più attenzione. Sì, io credo che fortunatamente il livello di sensibilità si è alzato. No, fortunatamente si è alzato. Ma guarda che molte delle gaffe di Tavecchio nascono proprio da questo, e dirà Dio che oggi noi viviamo in una società nella quale c'è un'attenzione al politicamente corretto di un certo tipo, perché è ovvio che tutte le situazioni sensibili, tutte le parole sensibili che possono richiamare un dolore a una persona, possono far del male, possono sembrare discriminatorie, tutte queste parole qui devono essere non usate o usate col massimo dell'attenzione possibile. Quindi io sono assolutamente dalla parte di chi dice che certe gaffe sono state assolutamente irricevibili, però poi esiste anche una sostanza nei comportamenti di un presidente, di una qualsiasi persona, e questa sostanza secondo me non è da buttare via. C'è un bilancio poi da politico. 800 24 00 24. Noi poi adesso parliamo di allenatori, Conte, di mercato, abbiamo ospiti, abbiamo la Premier, abbiamo tante cose, però se voi volete raccontarci le vostre storie, se volete dirci che cosa ne pensate anche su questa vicenda della Calabria, siamo qui, riusciamo a fare Maurizio dalla provincia di Pavia. Maurizio. Sì, ciao. Eccoci, ciao. Ciao Giovanni. Prego. Allora, io ho allenato per quasi 3 anni una squadra di calcio 5 femminile, che tra l'altro ha fatto anche la Serie A nel paesello dove abito. Allora, il tema è più schifoso quello che è successo in Calabria, perché afferisce con una riottosità del paese, del nostro paese Italia, all'omosessualità femminile. Allora, qui è inutile che ci giriamo intorno. Il calcio femminile, calcio a 11, e specificatamente nella questione del calcio a 5, è frequentato da ragazze che sviluppano una omosessualità. Ma come fai a dirlo? Cioè, questa roba qui. No, perché se ne hai parlato, aspetta, poi ti faccio. Non è che poi ti faccio finire. Non è il tema. Perché altrimenti. No, il tema. Come fai a dirlo? No, lo dico con estrema sincerità, ma anche con estrema serenità. No, ma devi. Scusa, però fammi finire. Non può essere sereno nel dire una cosa. Scusa, ma tu hai sbagliato l'uso. Hai sbagliato l'uso del verbo. Tu non puoi dire sviluppano l'omosessualità. Invece no. No, invece purtroppo tu puoi dire. Questo è un ragionamento è un ragionamento che facevo anch'io prima di conoscere questo mondo. Puoi dire che finire. Allora aspettate, facciamo così. Facciamo così. C'è il traffico, però Maurizio resta lì, che poi finisce il suo ragionamento e vediamo di parlarne. Traffico. Bene, molto bene. Il trap apprezza, lo sentite? Tutti convocati. Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vi presento. Tutti convocati. 800 24 00 24. Allora, Maurizio dalla provincia di Pavia. Eccomi. Dai. Sì, ciao Giovanni. Allora, il tema è proprio questo. Ed è il motivo per cui in un paese come Ocride, ma vi dico che capita anche a Pavia, la città, il paese, la comunità vede questa squadra di calcio a 5 come un qualcosa di brutto, vuol dire socialmente inaccettabile. Perché questo? Perché siamo fatti così, perché nel nostro paese l'omosessualità, di cui le squadre di calcio, il calcio femminile sono, come dire, molto piene, perché è molto numerosa, è molto frequente l'omosessualità femminile nel calcio, esattamente come, così c'è Marco Ciccio, nel mondo della danza, l'omosessualità maschile è molto frequente, quindi non sono stereotipi, sono pregiudizi. Quindi tu dici il calcio femminile nel sud, in questo caso in Calabria, non è accettato perché nasconde, significa quella cosa lì, non lo so. Pier, tu cosa pensi? Ma le generalizzazioni non mi piacciono. Devo dire che apprezzo una certa franchezza nel ragionamento, però non lo posso sposare, non lo posso sposare in fondo perché non conosco la storia. Mi sembrerebbe assurdo, allucinante che un'intera comunità si ribellasse o fosse connivente di chi minaccia. Sarebbe anche peggio, da un certo punto di vista. No, sarebbe anche peggio da un certo punto di vista. Quanto alle statistiche o alla percentuale o la maggiore propensione rispetto al resto della società, questo francamente non lo so. Insomma, mi sembra una generalizzazione... Purtroppo questa chiave di lettura, duole dirlo e segnalarlo, è il trionfo del famoso presidente della Lega Dilettanti Belloli, di Milano, Belloli, Felice, sì, Belloli, sì. Ex presidente, lo ricordate, la storia dei soldi e le quattro lesbiche. Però insomma, tema in questo anno in cui si è parlato molto di calcio femminile, avendo proprio da questo punto di vista una visione completamente Tanto c'è un amico laica che ci invita a non fare i verginelli ipocriti, ma insomma noi la pensiamo un po' diversamente da Maurizio, però ospitiamo tutti. No, però io devo dire che la diciamo chiave di lettura data da Maurizio in provincia di Pavia mi sembra come dire aderente ai fatti. Quello che non è possibile, non è pensabile e non è assolutamente ed è assolutamente incredibile concordare con lui è sul fatto che ci sia da parte della comunità civile una sorta di rifiuto dell'attività di queste squadre, addirittura arrivando fino al punto, come è successo nella Locride, di procedere a delle minacce per impedire l'attività di questo è assolutamente incredibile. Che poi queste attività siano abitate da persone che hanno questa particolarità, qui è il caso di dirlo, e chi se ne frega. Sì, appunto, non fa assolutamente. Ma infatti ribadisco quello che dice il professor Capuano, cioè sì. Sarebbe ancora più grave, no? Cioè, sarebbe ancora più grave se dietro a questo ci fosse anche un elemento discriminatorio sulla libertà sessuale delle persone. Sarebbe ancora più grave. A me sembra che qui noi dobbiamo fare un passo indietro, qui noi dobbiamo parlare di principi, da uomini di sport e da appassionati di sport. Qui c'è, indipendentemente da quello che è il problema, che possa essere il problema sottostante, c'è un impedimento che viene fatto alla libertà di praticare il calcio a 5, lo sport, e quindi di poter utilizzare il proprio corpo e la propria passione nella maniera più libera e più sana possibile. Questo è il punto. Poi quello che c'è dietro, certo, è ancora più inquietante quello che dice il nostro ascoltatore, perché c'è anche questo elemento di retropensiero, è ancora più triste. Sarebbe anche peggio dell'intimidazione mafiosa. C'è Paolo che ci scrive: non avete capito niente, il tema principale è che è un'intimidazione mafiosa. Poi c'è qualcun altro che ci dice che facciamo la morale, pur sapendo che ad esempio anche Tavecchio ha detto le cose in modo chiaro e giuste, cose che tutti sanno, non lo so. Dai, passiamo all'altro tema di cui ci siamo innamorati sui giornali in questi giorni di Natale. Aspetta, è difficile, dai. E agghiacciante quello che dicono, e agghiacciante che è una capra respiratoria. Pensi che il calcio possa essere rotondo? E agghiacciante che un conte tecnico tattico non possa vincere una partita col Catania senza che tutti sospettino che c'è qualcosa sotto. E agghiacciante, chapeau. Antonio Conte innanzitutto è quasi un figlio ormai, ci vediamo con una frequenza abituale. Io farò di tutto per tenerlo e naturalmente i limiti che abbiamo noi sono quello che sono, perché la federazione ha già fatto un grande sforzo per tenerlo, e spero che dalle impressioni che ho io dovrebbe restare. Senta, c'è un grande problema nella vita, che tutto è possibile, tutto è sostituibile, muore un papa, ne faremo un altro. Io non penso che sia importante a 7 mesi, 8 mesi dall'europeo dire se uno resta o meno. Abbiamo il passato recente che insegna, no? Cesare Prandelli, che ha fatto un ottimo lavoro secondo me con l'Italia, aveva rinnovato un mese prima dei mondiali, poi è successo quello che è successo ed è saltato tutto. Quindi secondo me sono tutte delle ipotesi. Altro tema di cui ci siamo improvvisamente innamorati è quello del futuro di Conte, scoprendo le parole di Tavecchio, le avete sentite, che è molto probabile che dopo l'europeo ci sia un divorzio, cosa che mi pare, Franco, sia in realtà epilogo già quasi scritto, o no, non so come la pensi tu. No, insomma, penso che sia è il più probabile dei pronostici da fare in questo momento, a 6 mesi, 7 mesi dall'appuntamento del dell'europeo, ed è anche probabilmente l'epilogo scritto dopo 2 anni di esperienza come CT della Nazionale, durante la quale esperienza Conte ha fatto i conti con le difficoltà del mestiere, allenando e convocando i giocatori 3 giorni, 4 giorni massimo in un mese, ha fatto i conti con la non generosità dei club, che pensano soprattutto e in particolare ai propri interessi e pochissimo a quelli della Nazionale, e ha fatto i conti soprattutto, secondo me, anche con la cifra tecnica del suo gruppo, sì, che è bassa, che è molto bassa, diciamo la verità. Si è anche un po' rassegnato, mi sembra, in questi mesi, un anno fa di questi tempi faceva fuoco e fiamme, minacciava dimissioni, Pier. Esatto. Adesso è un Conte molto normalizzato, più che normalizzato, mi sembra come dire, molto più dentro il suo ruolo e soprattutto consapevole che non è pensabile rivoluzionare questo tipo di incarico e questo tipo di mestiere. Pier, ma a quasi 2 anni di distanza dalla scelta di Tavecchio, secondo te possiamo tracciare un bilancio? Cioè, ha avuto senso andarsi a prendere un allenatore top come Conte, sì, che vale anche sì, per sì. il futuro, perché adesso si fanno i nomi di Capello, di Spalletti, di altri allenatori, diciamo, con quel profilo lì? Ma assolutamente sì, assolutamente sì. Questo, secondo me, è un capolavoro della gestione di Tavecchio. Aver preso Conte, che era il migliore in quel momento disponibile su piazza, averlo vinto, aver fatto pagare buona parte. Anche se poi ha fatto una cosa normale, cioè noi ci qualifichiamo come siamo sì, arrivati, fatto, guarda, prima, come avremmo fatto credo con chiunque. Sì, prima dell'europeo è tutto precampionato, tutto amichevole, come fossero state una serie di amichevoli. Ci siamo qualificati bene, potevamo qualificarci meglio, potevamo qualificarci peggio, ci siamo qualificati, come dici giustamente tu, ci saremmo qualificati con qualunque altro allenatore, quindi non c'è questo, secondo me, da discutere. Adesso comincia il bello, adesso ovviamente, come nella vita di tutti i CT, si giocherà tutto in 3 partite, in 4 partite, in 5 partite, quelle che saranno, e io mi sento abbastanza sereno di avere Conte in panchina. Magari mi sbaglio, però mi sembra l'allenatore che secondo me potrà tenere alte le prestazioni, allenare bene la squadra, avrà comunque 15 giorni di lavoro prima per poter lavorare su dei concetti, quindi io mi sento abbastanza tranquillo e sereno. E penso che la scelta sia stata una scelta azzeccata, perché la federazione ha preso Conte, perché ha preso un allenatore di grande livello, facendo pagare buona parte del suo ingaggio allo sponsor, perché questo sponsor, come dimostra il caso Balotelli, non è stato assolutamente invasivo, contrariamente a quello che alcuni maligni potevano pensare. Quindi da questo punto di vista, secondo me, è una vicenda. Sì, poi gli stessi maligni positiva, potrebbero no? sottolineare che abbiamo speso 4 euro e passa netti per fare, ripeto, una cosa che avrebbe fatto chiunque altro. No, però il tema oggi è dove va Conte a giugno. Ma scusami, però non è che l'hai preso per le qualificazioni, l'hai preso per l'europeo. Sì, vediamo, l'europeo. Adesso vediamo. Certo, vediamo. Però voglio dire. Io penso che gli allenatori servano. Poi è ovvio che se il calcio è liquido, il calcio delle nazionali è proprio aereo. Pier, scusa, per onestà intellettuale va ricordato che Civitavecchio all'esordio, proprio al suo esordio, prima del famoso scivolone della banana, lui aveva confessato un orientamento diverso per il CT della Nazionale. Parlava di Guidolin, sì, di tornare al passato, oppure della scuola di Coverciano per i tecnici, sì, federali, oppure Guidolin, eccetera. Quindi diciamo, il profilo, cioè la carta Conte è il jolly che lui si gioca alla grandissima per mettere dietro un paravento il problema. Sì, anche questo. Guarda, mi dite io, però dove va Conte adesso, al di là della scelta adesso, dei Tavecchi, dove va? Ti voglio dire prima una cosa, sì. Che innanzitutto che è un po' come il discorso di prima, no? È il discorso della gestione di Tavecchio in assoluto, partendo in salita, dovendo scalare un Everest dopo la tremenda battuta di Ortipo Ba, ha dovuto fare subito delle cose, le ha fatte, secondo me questa è una delle cose comunque positive che ha fatto. In generale io penso che Conte sia... abbia approcciato questa esperienza un po' con lo spirito del io ti cambierò, no? Sì, le donne. O quegli uomini che pensano sì, va bene, questo qui è un farfallone, è bello farfallone, dal 78 non si diceva, questo qui è un farfallone ma adesso arrivo io e diventerà un uomo fedele o una donna fedele, e questo secondo me non è successo. Conte ha capito che oltre lui può essere la persona più entusiasta del mondo, più carismatica del mondo, più aggressiva del mondo nel mettere i pugni sul tavolo in certe situazioni, ma il meccanismo del rapporto tra club e nazionali non lo risolvi. Quindi io credo che lui si sia abbastanza si è rassegnato. E quindi sono d'accordo con te. Mi dite dove va, poi dopo abbiamo la borsa. Dove va? Va all'estero oppure va alla Roma? Va alla Roma, invece c'è no, chi... No, secondo me è più probabile va all'estero. Secondo me non ha ancora un mercato sufficientemente internazionale, ad esempio per pensare alla panchina del Chelsea. Che non ha quel profilo lì, non ce l'aveva due anni fa, non ce l'ha oggi. Lui era stato comunque un sondaggio col Manchester United, c'era stato. Ma ne chiama tanti il Manchester United come fare il sondaggio. Devo dire che non è ancora l'Ancelotti della situazione, che ha un mercato internazionale pari a quello italiano. Credo che abbia molte più chance sul mercato ma italiano. Ma va al Milan o no? Ma guarda, secondo me se fosse stato disponibile già dopo Inzaghi e già prima di Inzaghi sarebbe arrivato lui sulla panchina del Milan. Sono troppe variabili, però dai, bisogna capire. Certo. Dire, metti che il Milan va in Champions, cosa difficile, ma non è ancora possibile. Sì, questo in merito alla è anche possibile che io mi fidanzi con Letizia Castà se il Milan va in Champions. Sì, dici che è più probabile. Sì, molto più probabile. Molto più probabile. 800 24 00 24, c'è la borsa. Poi torniamo subito. Forza Azzurri e grazie a tutti. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Non lo so neanche io, perché comunque non si sa mai. È sempre una inferno, sempre una atmosfera strana intorno a noi. Posso chiederle due cose, un commento sulla partita di ieri? Quando si vince si parla, quando si perde si sta zitti. Penso che ho caratteristiche giuste, quelle caratteriali morali per fare bene questo Milan. Poi, come ho detto prima, se non ci riesco io, allora bisogna chiamare un esorcista per fare le cose. Tranquilli, non bisogna mai rimanere nessuno dal sottoscritto in giù, quindi bisogna bei reattivi, si resta lì, bei reattivi, bei combattivi tutti, perché insomma dobbiamo assolutamente riconquistare qualche posizione in classifica. Bisogna chiamare un esorcista o bisogna chiamare Padre Matteo, che è l'ultima versione delle critiche di Berlusconi al signor Mihajlovic, che non so se Franco ordina notizie su come ha trascorso le vacanze natalizie, se è sereno il giusto oppure il giusto preoccupato. No, io devo dire che lui, insomma, conoscendolo, non mi pare che abbia per esempio lo stesso atteggiamento di, tanto per dire, Filippo Inzaghi, che pativa molto. Cioè lui se ne frega, dice tanto io ho il contratto, arrivo in fondo. No, più che fregarsene è il contrario. Mi sembra che lui abbia una grande convinzione dentro, sia animato da una grande fiducia, una grande convinzione di poter nel mese di da gennaio in avanti, ed è il mese nel quale si gioca tutto, si gioca la vita, il rinnovo del contratto, il futuro, la finale di Coppa Italia, si gioca tante cose. È convinto di poter riuscire a mettere la barca sulla rotta giusta. Il problema di fondo è, rimane sempre quello, dal mio punto di vista, e cioè Mihajlovic era arrivato a Milano per colmare una serie di lacune. Primo, il problema della disciplina l'ha colmato. Secondo, rendere molto più intensi gli allenamenti l'ha colmato. Terzo, dare un gioco e un'identità, beh, questo obiettivamente. E la fase difensiva e tutte quelle cose lì. E questo lì, obiettivamente non è successo. Aspetta, fatemi chiedere a Claudio Pasqualin, che saluto. Buon pomeriggio, Pasqualin. Pasqualin che vi ascolta e ricambia. Sì, grande Claudio, come stai? Auguroni. Bene, anche tu stai bene. Bene. No, così allarghiamo il discorso, se sia Mihajlovic o no il problema di questo Milan. Oggi Sacchi, su Corriere della Sera, dice il problema del Milan è che non è una società più coesa come un tempo. Al di là Pier, che a noi fa ridere perché ci viene in mente il nostro Andro Mercù con le sue imitazioni. Ecco, coese. Bravo. Però di chi è la colpa, Pasqualin? Insomma, quanto è colpevole Mihajlovic, quanto merita di riprovarci? Ma Mihajlovic colpevole non credo proprio, anzi Mihajlovic credo abbia confermato con il suo buon lavoro l'idea di quel serio, appunto, è quasi indeflettibile, molto rigoroso lavoratore con la cui immagine, appunto, lui si era presentato a Milano. È il mercato che non è stato idoneo e quindi lui si è trovato ad avere a che fare con una rosa male assortita e con dei giocatori che non corrispondevano evidentemente alle sue esigenze. Sì, anche se poi dopo io non so, a cercarlo un errore di mercato del Milan quest'estate si fa fatica. So, Bacca i suoi gol li fa, Romagnoli gioca sempre, Bertolacci piano piano sta decollando, ha giocato poco. Piano piano è quanto è costato. Cerci, per dirne una. Ma Cerci non è costato nulla perché è in prestito ancora fino alla fine della stagione. Io non condivido diciamo il giudizio tecnico, l'opinione tecnica di Claudio, perché faccio questo ragionamento. La cifra tecnica, il Milan non sarà da primi tre posti, come squadra, ma non è nemmeno da stare dietro il Sassuolo. Allora, se il Sassuolo sta davanti con una partita in meno, allora secondo me c'è un problema che attiene alla identità e soprattutto attiene al ritardo clamoroso col quale Mihajlovic ha trovato il sistema di gioco. Ne ha cambiati quattro. Un po' di colpa Mihajlovic deve averla. Poi io vi chiedo anche a te, Pier, cioè se non sta diventando un po' per Berlusconi anche comodo avere lì Mihajlovic. Cioè lui dice che Mihajlovic non va bene, non lo cambia, si sta in un certo senso precostituendo l'alibi se e quando, adesso vediamo, insomma la stagione andrà male. Ma Berlusconi, il Milan sta facendo quello che deve fare il Milan, cioè società che non sono schizofreniche non cacciano via un allenatore dopo tre mesi. Sì, questo... però non puoi neanche andare avanti a bacchettarlo. No, se decidi di tenerlo, questo sappiamo che un po' sono bacchettate reali, un po' è anche battute, siamo noi della stampa, battute, no? battute. Sì, oppure umori che riportiamo. Sa che Berlusconi non sia contento di quello che sta facendo Mihajlovic e di quello che sta facendo il Milan quest'anno, credo che sia non solo normale ma quasi apprezzabile, nel senso che se fosse contento ci sarebbe da farsi delle domande, quindi è ovvio che non sia felice, certo. Così come non è felice la curva, così come non sono felici i tifosi e tutto il mondo rossonero. Quindi io penso che alla fine il livello di pressione che c'è su Mihajlovic è un livello fisiologico per quello che è il livello del club, il tipo di investimento della campagna acquisti che è stato comunque molto importante e molto corposo e, come dicevi tu, anche complessivamente soddisfacente, perché il vero paradosso è che il Milan è in questa situazione ma Bacca funziona, ma Bertolacci sto pensando se Gagliani comunque avesse sbagliato il mercato o magari avesse preso tipo con Ndombele e Perisic, due che in questo momento stanno rendendo meno di quello che sono stati pagati soprattutto con Ndombele. Quindi detto questo, io penso che il Milan stia facendo quello che è normale e logico fare. È ovvio che trattandosi di Milan, cioè di un grande club che da qualche anno non ne becca una, è, insomma, è un po' come la situazione che c'era nella famosa Juve dei settimi posti, cioè, o dell'Inter che negli anni in cui soffriva, cioè è l'opinione pubblica che di fronte a un Milan sesto in classifica e così pallido, settimo in classifica e così pallido, inevitabilmente si pone gli interrogativi e crea ogni giorno il dibattito permanente effettivo sull'allenatore. Ma ripeto, è la stessa cosa che poteva succedere alla Juve prima dell'arrivo di Conte o che è successa per tanti anni all'Inter. Fa parte della normalità di una situazione normale, cioè una grande squadra, soprattutto quest'anno ha investito tanto, che fatica. Sì, anche una che si continua a ritenere grande, forse lo è meno, perché viene da anni di mancati investimenti. Mi fate chiedere a Pasqualini, invece, facciamo un po' le carte, cosa succede a gennaio sul mercato. Se davvero questo è un mercato che può spostare o no gli equilibri davanti, vale per il Milan ma non solo. È un mercato molto importante, un mercato decisivo probabilmente per lo scudetto che è appunto sul mercato. Intendo dire che basterà la mossa azzeccata per ottenere quel quid pluris che ti può portare poi alla vittoria finale. Le squadre che se la stanno giocando in un campionato dove non c'è un padrone già certificato, se la giocano appunto acquisendo o restando come sono adesso, insomma, acquisendo la pedina giusta, oppure. Ma chi è che può crescere di più? Chi è che può crescere di più? Il Milan, l'Inter, la Juventus, il Napoli, la Fiorentina? Quella che ha più margine di crescita è indubbiamente il Milan, insomma, no? Ma l'impressione è che restando con questa rosa, quella identità di cui giustamente è stato detto finora è assolutamente priva, difficilmente riuscirà a ottenere quale che sia la formula tattica, quale che sia il modulo scelto, e quindi andrebbe, a parer mio, rivoltato come un calzino, come si usa a dire, il che mi sembra difficile possa avvenire. Sì, incompatibile con i conti, credo, e anche con la voglia di Berlusconi di spendere, che penso sia vicino a zero, no? Sì, Pasqualini, Franco. Ma poi il problema vero è che adesso, al di là dei ragionamenti, diciamo, teorici, ma poi sulla carta non è così semplice e non è così scontato che si possa giungere all'acquisto di un giocatore, come ha fatto capire anche Mihajlovic. Se deve arrivare uno, deve essere uno che ci cambia la vita nella squadra. Quindi la risposta agli amici che chiedono di Witzel è no, fondamentalmente. No, nel senso che se è possibile Witzel a certe condizioni, sicuramente lo possono fare. Sì. Se Witzel o non è sul mercato o la sua società chiede una cifra impossibile, è evidente che non si può fare. Prima di salutare Pasqualini, gli chiediamo un colpo, uno che lui si immagina possa succedere a gennaio. Ma è difficile dirlo così su due piedi. Ho sentito adesso quest'ultimo nome, se ne parla tanto, ma credo che sia legittimamente da temere che quantomeno può essere sul mercato, ma il prezzo sarà fuori della portata del Milan attuale di sicuro. Sì, e soprattutto di un'operazione credo di gennaio. Grazie a Claudio Pasqualin. A voi, buona continuazione. Saluti. Grazie Claudio Pasqualin. 800 24 00 24, ci sono Fernando da Campobasso, Roberto da Cuneo. Non abbiamo abbandonato il tema di prima, quello di Locri, del calcio femminile, ci accusano di essere ipocriti, adesso ci torniamo su, e vi facciamo sentire anche che cosa ha detto il capo degli arbitri rispondendo a Mihajlovic sulla questione degli errori arbitrali. Adesso c'è il traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, salutiamo l'amico Pier Giacomo, da Cassino, provincia di Frosinone, che scrive: non sopporto più questa campagna denigratoria contro Mihajlovic messa su dai conduttori di questa trasmissione, laddove è evidente e riconosciuto dai più sereni che il cancro di questa squadra è nei vertici della società, ormai alle metastasi. Salutiamo Pier Giacomo, ciao, tranquillo, dai. Mi fate sentire Nicchi a proposito dello sfogo arbitrale di Mihajlovic. Gliel'hanno chiesto a Radio Rai, gli hanno proprio parlato di quelle parole di Mihajlovic. Sentite cosa ha risposto Nicchi. quando gli allenatori incominciano ad attaccare gli arbitri, di solito o sono vicini al licenziamento o si rendono conto che la squadra non ottiene i risultati che speravano. E allora credo che oggi non ci si può più nascondere. E come si vede gli errori degli arbitri, si vedono anche gli errori delle società, gli errori tattici, ognuno si prende le proprie responsabilità, noi ce le prendiamo. Oh, questo Nicky su Mihajlović non gliela mandate a dire, eh? No, però è puntuto, è puntuto. No, più che puntuto è fuori luogo, perché è evidente, cioè dal punto di vista, diciamo, della spiegazione come dire pubblica degli affanni di Mihajlović, ci sta il fatto che lui intervenga sul piano tecnico a dire che è un paravento per nascondere problemi di natura tattica, quindi come per dire non è all'altezza della situazione Mihajlović. Questo francamente è, io la considero una clamorosa invasione di campo. Però insomma Nicky ogni tanto quando gli piglia il nervo ha risposte di un certo tipo. Roberto da Cuneo. Roberto, buongiorno a Eccoci. Tutti. Dunque, riguardo a quello che è successo nella Locride, sì. Secondo me, e non temo di esagerare, è l'espressione di una mentalità associabile a quella dell'ISIS, una che approfitta di una profondissima ignoranza, un abisso di ignoranza. Però la matrice è quella. Io cioè, sono la matrice è quella, quale? Cioè, l'ignoranza. L'ignoranza, quella che è espressa anche dall'ISIS, però è pericolosa, perché il fatto che poi questa venga accettata, in un certo senso significa, senza generalizzare, che in quel tessuto sociale purtroppo la situazione è di estrema ignoranza, povertà. Sì, però d'animo. Scusami, non è quel tessuto sociale, perché se poi aggiungiamo all'episodio della Locride la testimonianza del nostro radioascoltatore che ci chiama da Pavia, e dobbiamo dire che a questo punto non c'è più quel tessuto sociale, ma è questo tessuto sociale, e cioè sì, il paese. Sì, non inteso geograficamente. Bravo. Lì purtroppo è un'espressione di una parte di popolazione, che può essere in Italia, Svizzera, ovunque. Esatto. Che è talmente ignorante che, esatto, non ha altro modo di essere. Una volta bruciavano i libri, questi impediscono a delle ragazze di giocare a calcio. Sì, sì, sì. Anche questa è una chiave abbastanza, diciamo, preoccupante. Fernando dalla provincia di Campobasso. Fernando. Salve, Eccoci. Innanzitutto grazie per la convocazione. Grazie a te. Volevo provincia di Campobasso, dove? Allora, Termoli. Vabbè, innanzitutto siamo davanti al mare. Sì. Quindi meglio di dove siamo noi adesso. Meglio di dove siamo noi. Esatto. Oggi, poi, tra l'altro, sono settimane bellissime queste a Termoli, con un cielo azzurro e un mare. Si confina con la provincia di Foggia. Poi c'è un ristorante in centro straordinario di pesce. Con la parola Zibas. Bravo. Andiamo avanti. Va bene. Andiamo avanti. Tanto noi siamo qui con la mascherina antismog. Quindi. Prego, Fernando. Volevo prego. Intervenire in merito ai fatti di Locri, sì, e in merito anche all'opinione del ascoltatore di Pavia. Io purtroppo rabbrividisco quando oggi nel 2015 sento parole di questo tipo, cioè frasi e concetti di questo tipo, perché è ora, secondo me, a mio modesto parere, che tutte le istituzioni ad ogni livello e grado, e anche soprattutto quelle sportive, si mobilitino per distruggere questi preconcetti. Sì, Fernando, perché, anche se devo dire la verità, Maurizio, l'amico di Pavia, ha portato dietro tanti che ci hanno scritto: è così, ha ragione lui, sì, siete ipocriti, guardi, voi che gli togliete parola, a parte che noi non togliamo parola, l'abbiamo fatto argomentare, poi insomma abbiamo un'idea diversa. Io. Prego, Fernando. Ho anche io una grande testimonianza. Io sono stato fortunato nella vita di aver avuto un nonno di Alessandria, che è stato giocatore dei Grigi di Alessandria, grande amico del papà di Gianni Rivera. Quando dopo la guerra con tutta la sua famiglia si è trasferito qui in Molise, a cavallo tra gli anni 60-70, a Larino, da grande sportivo, grande amante del calcio, ha fondato le due squadre di calcio femminile a Larino, che lui faceva giocare. E cosa è successo, Fernando? È successo che adesso, innanzitutto è successo che mio nonno, che ci ha lasciato pochi anni fa, 90 anni, veniva ancora a distanza di 20-30 anni ringraziato dalla popolazione di Larino e da tutte quelle ragazze che oggi sono diventate non solo mamme ma nonne e donne di altre giocatrici che giocano ancora in queste squadre, che militano ancora in queste squadre e che non per questo hanno... Ma ha trovato difficoltà, hanno... non lo... Assolutamente. Dove vuoi arrivare? Io voglio arrivare al fatto che non si può assolutamente affermare che una donna che pratichi uno sport ritenuto uno sport maschile diventi in questo modo omosessuale. Sì. Per lo stesso motivo potremmo dire... Pier, noi siamo d'accordo, il problema è che in tanti pensano il contrario. E lo spaccato di oggi è questo. Ma pensano il contrario perché purtroppo siamo arrivati a un livello di cultura quasi pari allo zero, se non pari a zero. Non di cultura, perché... scusa, di ignoranza. Ma, certo. Ma la mancanza di cultura è evidente che diciamo genera quell'ignoranza che purtroppo... No, sì. Ma poi la generalizzazione, è la generalizzazione, perché poi voglio dire, ci può anche essere da un certo punto di vista statisticamente, chi era l'ascoltatore faceva l'esempio della danza, no? dei danzatori uomini, ci può essere da un punto di vista strettamente statistico una maggiore correlazione, ma prima di tutto chi se ne frega, perché ognuno dovrebbe essere libero di vivere la sua sessualità come gli pare, quindi questo è il punto di partenza di tutto, ma secondo non può diventare una regola assoluta o un preconcetto o un'etichetta denigratoria, sì. Tutto qui, poi se all'interno delle... cioè che ci possa essere una correlazione fra essere appassionati e quindi giocare degli sport un pochino più maschili con questo tipo di tendenza, ma è un argomento che io lascio. Il problema c'è un amico, Pier, Mauro da Udine, Mauro da Udine, io volevamo fare una trasmissione diversa oggi, però insomma, Mauro da Udine scrive 3492386666, io dico che se sono lesbiche e vogliono essere maschi non devono partecipare al campionato femminile, ignoranti sarete voi. Ma tu pensi? Ma questo però posso dire. Questo per dire, ma ne stanno arrivando, simili, sul tema. Vabbè, Pasquale dalla provincia di Foggia. Pasquale, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, io chiamo la provincia di Foggia, cioè dal Gargano. Sì. Ma dove? Da dove? Da Vico. Oh, Vico del Gargano. Oggi diciamo che Ordine ha portato proposta. Perché il l'ultimo dell'anno venite a fare qui in questo bel Gargano, Vico, perché sono di Vico. Io vado in montagna, Pier, non so dove va, Franco, dove vai tu? No, io sono legato alle sorti del nipotino e quindi sono bloccato qui, però io siccome per una vita ho frequentato il Gargano perché facevo le mie estate, le passavo a Vieste, conosco perfettamente Vico, sede di Capitaneria di Carabinieri. Ecco, hai capito. Pasquale, prego. Allora, ho due domande da fare a proposito e al vostro ospite. Sì. Allora, la prima è sul Milan. Il Milan sta, mi sembra, se non sbaglio, sesto posto dietro al Sassuolo, se non sbaglio. E voglio sapere, per il mese dell'anno nuovo, cioè di gennaio, il Milan, se Mihajlovic o Berlusconi compreranno qualche giocatore, cioè... qualche giocatore che potrà far giocare più la squadra. E poi l'altra domanda? E poi l'altra domanda, io sempre, visto che sono dalla provincia di Foggia, voglio fare una proposta sul Foggia in Lega Pro. Prima in classifica, se potrà andare in Serie B avrà i soldi per fare una grande Serie B. Allora, comincio a rispondere. C'è il massimo esperto di Foggia. Sì, con la non seconda. Di Milan, di Foggia. Esatto. Con la seconda, la società in questo momento è retta da due fratelli, i fratelli Sannella, che sono in questo momento l'espressione più viva e più generosa della imprenditoria foggiana. I soldi a disposizione ci sono, dovessero fare il salto, purtroppo non sono primi, sono secondi dietro la Casertana. Dovessero fare il salto in Serie B, credo che ci sarebbero a disposizione delle risorse economico-finanziare per fare bella figura. Per invece. Quel che riguarda il mercato, ripetiamo quello che è stato detto prima, il Milan fa qualcosa di significativo solo e soltanto, credo a centrocampo, solo e soltanto se è in grado di assicurare un calciatore che faccia fare il salto di qualità alla squadra. E quindi insomma temo che il ritornello sia... c'è Boateng, torna Menez, torna Balotelli. Ascolta, Boateng arriva solo fino a giugno ed è stato fatto un piacere per liberarlo, diciamo, dalle grinfie dello Schalke 04. Ok, Francesco, indovina da dove, Pier? Da Foggia. Da Foggia, sì. E non so perché, dai, Francesco. C'è la clac dei pugliesi. Pronto? Sì, Francesco, prego. Niente, parente di Franco Ordine, giusto? Mi dispiace, ma io interpreto l'episodio di Locri in questa maniera. Ci sono tre mali per il nostro sport. Sì. I soldi, e vedi Blatter, Platini. Sì. Il doping e le scommesse. Ed è difficile veramente intervenire a questi livelli, perché quando si può scommettere sui campionati minori succedono un sacco di porcherie. Sì, qualcosa abbiamo visto in questi anni, è questo, e qualcosa vedremo ancora. Se non si mettono a posto le cose dalla testa, se non cominciamo a fare pulizia, non si arriverà mai a niente. Sì, Francesco, volevo dire su questo argomento, dopo averti chiesto se alla vigilia di Natale hai mangiato le pettole, volevo chiederti invece e dirti questo. Io ho mangiato la zuppetta. Va bene, volevo dirti questo, che le scommesse sono un problema e sono un vero attentato alla regolarità dei campionati. I soldi fanno perdere la testa non tanto a Blatter, che l'aveva persa da tempo immemorabile, ma soprattutto a Platini, che si presentava come il grande moralizzatore. Ma non c'è nessuna parentela con la vicenda di Locri, laddove sono sul tappeto e sono in ballo altre questioni che attengano alla libertà di poter fare, di poter esprimere sia la propria sessualità sia il proprio sport preferito. Non c'è dubbio. Sulle scommesse posso aggiungere, io credo, sono d'accordo, cioè io penso che si scommetta troppo. Credo che tutte le volte in cui non c'è una correlazione tra la scommessa e il risultato poi reale, penso a scommesse sul numero di calci d'angolo, a numero di gol fatti. Sì, ci sono tante tipologie che influiscono poco sul risultato. Cose di questo tipo, insomma, si entra potenzialmente in un'area grigia. E allo stesso modo, lo stesso vale per le serie minori, perché nelle serie minori, dove i calciatori vengono pagati poco, quando vengono pagati, soprattutto in clamoroso ritardo. Vi devo fermare perché c'è il GR. Pier, ci sentiamo domani? Senz'altro, ciao ragazzi. A domani, ciao Pier. Franco Ordine resta con noi, torniamo dopo il GR delle 15. Ciao Luigi, ciao Pierluigi, ciao a tutti e due. Tutti convocati. Convocati. You seemed hurt in the week by the speculation about your future. Do you expect a fresh wave of that speculation? I was not hurt. Then you don't understand my message. My message was that media are saying things, are writing things, what is not conform what is happening in Manchester United. That was my message. Not that I'm hurt, because I am used to that. Insomma, i giornali, le televisioni dicono, scrivono cose che non sono reali. Così parlò Luis Van Gaal dopo la sconfitta contro lo Stoke. Oggi grande lunedì di Premier League. Si comincia alle 16, però il piatto forte è alle 18:30 con Manchester United contro Chelsea. Poi c'è l'Arsenal, domani c'è Ranieri contro il Manchester City. Saluto Nicola Roggero da Fox. Ciao Nicola. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. C'è qui anche Franco Ordine, grande lunedì, forse non per Van Gaal, non lo so, io se vogliamo fare una scommessa, visto che prima parlavamo di scommesse su cosa può succedere oggi al Manchester United, credo che insomma Van Gaal sia un dead man walking sportivamente parlando. Guarda, la mia impressione è che al Manchester United in questo momento non sappiano cosa fare. Io avevo previsto che dopo l'addio di Ferguson, quindi dopo 27 anni straordinari di allenatore che è la leggenda di questo sport, ci sarebbero state enormi difficoltà. A me pare che il Manchester United queste difficoltà se le stia acuendo da sole. Hanno avuto troppa fretta con Moyes, 8 mesi mandato via, e adesso con Van Gaal non vorrebbero avere la stessa fretta. Il problema è che Van Gaal sta facendo addirittura peggio di David Moyes. La sua media punti quest'anno è la peggiore del Manchester United da 24 anni a questa parte. Soprattutto a Van Gaal è stato concesso un credito illimitato per quanto riguarda la campagna acquisti. Sono state spese oltre 200 milioni di sterline e questa squadra non si capisce da dove parte e come arrivi. È una squadra piena di buchi, una squadra... Sì, ci sono modi migliori di spendere i soldi. Noi prima parlavamo del Milan che ha iniziato a spendere dopo anni di mancati investimenti e si ragiona sui 20 milioni di Bertolacci a Manchester. Questo va moltiplicato per 10. Esatto. Al confronto del Manchester United, al Milan sono dei dilettanti, perché quello che ha combinato Van Gaal sul mercato, io faccio solo un esempio, è l'unico allenatore al mondo che è riuscito a non far giocare Di Maria. Io penso che ci voglia una fantasia assoluta, come riuscire a non far dipingere Van Gogh, ecco. Siamo a questi livelli. Questo, scusami, è la dimostrazione, diciamo, plastica del fatto che quando ci sono molti giocatori, ex giocatori soprattutto a caccia di stipendi, che dicono: ah, nel Milan ci vuole la parte tecnica, ci vuole il competente per il mercato. Ma la dimostrazione, la conferma della grande fesseria proviene proprio dalla Premier League. È vero, infatti è quasi inspiegabile come dei club che hanno una potenzialità finanziaria astronomica, e non parlo soltanto dei club maggiori, ma parlo di tutta la Premier League. Notizia del fatto che Iturbe possa andare al Bournemouth, sì, la squadra più piccola neopromossa in Premier League che lotta per salvarsi e che però incassa dalla TV più o meno come la Juve da noi. Esatto. E queste squadre hanno una quantità di soldi paragonabili a quelle delle nostre squadre maggiori, quindi immaginiamo cosa possono fare i club più importanti. Il rapporto tra risultato tenuti e soldi spesi, per esempio, dal Manchester City è veramente misero, perché con quei soldi ci si aspetta che il Manchester City vinca ogni anno la Premier League e un anno sì e un anno anche sia perlomeno in semifinale di Champions. Visto come andate, è quasi perdonabile Mourinho, in fondo il Chelsea ha speso ma non ha straspeso. A proposito, domani arriva lui, no, a Manchester, O'Giggs è Mourinho. Una pezza sul buco, non lo so io come vogliamo. Poi questa moda anche di mettere le ex bandiere in panchina pensando che possano risolvere il problema. Guarda, infatti il dolore è questo: vedere un giocatore come Giggs, di fronte al quale tutti quanti ci siamo alzati in piedi e siamo stati almeno 10 secondi sull'attenti per quanto faceva sul campo, lo straordinario mago gallese coinvolto in questo disastro e che addirittura potrebbe prendere la patata bollente della prima squadra negli ultimi 6 mesi, mi stringe il cuore. Io quasi non glielo augurerei a Giggs, però da qualche parte si deve pur cominciare, ed è chiaro che se ti offrono di fare anche solo ad interim, sì, il manager dello United non può dire di no. È un po' come Inzaghi che ti dice, come facevo io a dire di no alla panchina, certo, del Milan, poi però c'è il rischio che ti bruci. Fra le consolazioni, esatto, fra le consolazioni di questa, di questo Natale, insomma, del Boxing Day, di quella roba meravigliosa che loro fanno, e noi, a parte la Serie B, noi torniamo su questo punto perché prima o poi la vinceremo, questa battaglia epocale, insomma, loro fanno la pressione, sì, loro fanno, noi no. Fra le mie consolazioni ci sono queste due cose. Allora, Van Gaal che per spiegare perché non fa giocare Rooney dice che è colpa del vento. You had a game plan that didn't involve Wayne Rooney. I'm always very faithful, and I see also how they have trained, so they want to perform well. But the circumstances are also difficult, not only the circumstances with the wind, but also with the pressure. Avete sentito, no? Insomma, c'era il piano per far giocare, sì, però poi il vento. E poi l'altra è cosa, come Mazzarri per la pioggia. Sì, ma c'è anche chi ha fatto meglio, o peggio, non lo so, Nicola. Cioè Wenger, che ha perso 4-0 contro il Southampton, e sentite come l'ha spiegato. Southampton made the game very physical, we lost too many challenges, and that explains why we lost the game, but that's one aspect, so well done to them. The second aspect is that we had On the first three goals we were really unlucky with the decision of the referee. But the first goal was offside. Oh, insomma, questo qui ha perso 4-0 e dice sì, va bene, loro hanno giocato bene, però c'è questo aspetto che l'arbitro ci ha penalizzato, ha perso 4-0. Allora, fra le mie consolazioni invernali c'è che non siamo solo noi, la smettiamo allora, una volta per tutte questa storia. Diciamo una cosa, che la spiegazione di Wenger rientra in un certo malcostume di spiegare anche un 4-0 con le decisioni arbitrali, quando l'Arsenal non è che ha perso, l'Arsenal con il Southampton non è proprio sceso in campo. Ma la spiegazione di Van Gaal, secondo me neanche i fratelli Marx nella loro miglior forma l'avrebbero mai immaginata. Cioè dire a un giocatore inglese che lui non gioca quando c'è il vento, in un'isola dove c'è soltanto vento, è come se io, che sono nato a Casale Monferrato e quindi nel cuore del mio Rapadano, dicessi io non guido quando c'è la nebbia, il che vuol dire non guidare mai praticamente. Io trovo la spiegazione di Van Gaal di un umorismo, ripeto, i fratelli Marx, da Groucho in avanti, Woody Allen messi insieme, non l'avrebbero mai immaginata. Sì, tra l'altro parlando di Rooney, che insomma non è leggerissimo, è un bel torello, e quindi vabbè. Ma il 20 in Inghilterra c'è sempre, sì, c'è tutti i giorni dell'anno. Come dire, non ha giocato perché pioveva, e quindi dov'è la notizia? No, per chiudere Nicola, domani invece Ranieri è un bivio della stagione, perché noi continuiamo a conservare questa speranziella che possa arrivare fino in fondo. Domani gioca col Manchester City, se è il momento giusto per dare un segnale è questo. Sì. O noi siamo degli illusi? Forse siamo degli illusi. O dei temerari. È chiaro che non si può non sperare che il Leicester vinca il campionato, perché sarebbe meraviglioso, sarebbe una lezione per tutti, sarebbe la dimostrazione che quando si lavora seriamente, anche con mezzi molto più ridotti rispetto ad altre squadre di Premier, si può arrivare fino in fondo. Sarà molto molto difficile, però intanto col Manchester City il Leicester chiuderà una serie impressionante, perché in questo periodo ha incontrato tutti, dallo United al Chelsea all'Everton al Liverpool, e appunto il Manchester City fino a questo momento ha perso soltanto col Liverpool e tutto sommato neanche facendo una figuraccia. Quindi una squadra che ha dimostrato di saper giocare a bel pallone. A mio parere, se sei in testa al campionato dopo 18 giornate, un caso non può essere. E diciamo, saremo illusi a pensare che arrivi fino in fondo? Sì, però possiamo non essere illusi a pensare che l'Ester finisca intorno al quarto, quinto posto, che sarebbe sempre un traguardo. Sarebbe già un miracolo. Un anno fa di questi tempi era più o meno ultimo, se non sbaglio, l'Ester in classifica. Era straultimo, si salvò con un incredibile rush finale nelle ultime giornate. Grazie Nicola. Grazie a voi, un saluto a Franco Ordine. Saluti, ciao Nick. Grazie a Nicola Ruggero da Fox 800 24 00 24. Federico dalla provincia di Siena. Federico. Sì, salve, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te. Io volevo sottolineare due aspetti riguardo al mercato del Milan, che sentivo prima Ordine parlava, diceva che tutto sommato la squadra non è stata costruita così male. Sì. Però io in realtà le partite le ho viste tutte quest'anno, e invece secondo me non è quanto si spende, ma il fatto che i soldi sono stati spesi male. Cioè, il Milan è una squadra di punte e mezze punte: Cerci, Bacca, Luis Adriano, Menez, lo stesso Bonaventura, cioè tutti davanti, tant'è che l'ultimo modulo di Mihajlovic di fatto è un 4-2-4. Sì. E le chiavi del centrocampo sono state date a Montolivo, che non è Pirlo, è un giocatore di qualità. Io penso, Federico, che non si potesse pensare di far tutto in un'estate, e in fondo, ripeto, se mettiamo in fila gli acquisti di quest'estate, in gran parte stanno rendendo almeno in maniera sufficiente. Poi è evidente che bisognava fare altro, è evidente che probabilmente a un certo punto dell'estate i soldi sono finiti e quindi è rimasto qualche buco, ma bisogna avere un po' di pazienza. Io credo sia questo, Franco, diciamo anche una chiave di lettura. No, allora, diciamo questo. Io dico che è evidente che, condivido con Giovanni Capuano l'idea e l'opinione che secondo cui il Milan ha pagato l'assenza, diciamo, dal grande circuito delle stelle del calcio internazionale durante questo mercato. In questo senso, se tu pensi di poter in una sola stagione, in una sola sessione di mercato, colmare un gap clamoroso con le prime della classe, o vai a prendere, non è possibile, i numeri uno in assoluto, e cioè i Cristiano Ronaldo, i Messi, eccetera, oppure ti devi accontentare dei numero due, dei numero tre, in qualche caso anche dei numeri quattro. Anche 4. Sbagliando, è qualcosa. Certo, si può anche sbagliare. Certo. Io dico soltanto che Il mercato del Milan, se ha una pecca, è quella che è stato interrotto a metà dell'intrapresa, nel senso che dopo aver realizzato la parte, diciamo, sostanziale del mercato, e cioè il giovane difensore Romagnoli, l'attaccante più importante, sì, mancava quello in mezzo, oh, mancava quello in mezzo, e quindi quella tessera, secondo me, ha reso incompleto il puzzle, ma non talmente incompleto da poter rendere nel girone di andata a meno 2 dal traguardo, dallo striscione, al di sotto del Sassuolo. Sì, poi c'è chi ricorda sempre Seedorf, che fece 35 punti in un girone, vediamo a quanti arriverà Mihajlovic. In tema di scuse impossibili, ci ricorda un amico, cosa ne dite di Spinelli, che dice di non poter prendere diamanti perché ha perso il numero? Sì, questa secondo me è strepitosa. Quasi come il vento di Van Gaal. Sandro da Piacenza, Sandro? No, non c'è. Marco da Verona. Andiamo a Marco. Ciao, buongiorno. Ciao Marco, buongiorno. Prego. Ho sentito una cosa molto bella. Avete detto sarebbe bellissimo se Leicester vincesse il campionato, sì, in Inghilterra. Ecco, io in Italia non sento mai qualche giornalista dire sarebbe bellissimo se il Genoa o il Torino vincessero il campionato. Anzi, cito un esempio: quando la Juventus perde con l'Empoli, i giornali titolano disastro Juventus, ma una volta che dicano grande vittoria dell'Empoli, sì, beh, ma perché è un disastro per la Juventus, i giornali scrivono la notizia, certo, ma è un disastro anche per la United se parla con Leicester. Però sì, ma difatti qualcosa è stato scritto in Inghilterra in queste settimane sul disastro dello United, più che sul primo posto dell'Leicester, perché poi sono tutti uguali a noi. Vi faccio un altro esempio: la diversa formula della Coppa Italia e dell'FA Cup. La Coppa Italia in Italia è costruita affinché le grandi debbano arrivare in fondo. Esatto. Perché è uno scandalo che una piccola possa vincere. No, non perché è uno scandalo, Marco, perché poi alla fine la Coppa Italia, come qualunque altro prodotto, compresa l'FA Cup, è fatta, sì, per essere venduta. E questa, sì, formula, che non piace a nessuno dal punto di vista sportivo, alla fine porta dai quarti in poi grandi ascolti in TV e comunque stadi che sono pieni sopra le medie del campionato. Quindi posso dire una cosa? Va benissimo così la comunque formula. Comunque, alla faccia del tabellone costruito per far arrivare le grandi in finale, c'è la possibilità che in finale arrivi o il Carpi o l'Alessandria o addirittura l'Intella. Quindi... Sì, però questo è l'esempio che capita ogni volta ogni 30 anni. La verità è che qui in Italia non è accettabile che una Juventus perda in casa con il Crotone. Non è accettabile. No, Marco, è accettabile, però ad esempio della Coppa Italia sono state provate mille formule, compresa quella che giocava in casa la squadra più debole, e alla fine il successo di una manifestazione si misura con i numeri che fa, certo. Questo almeno è il mio pensiero, e questa formula, che ripeto, sportivamente può non piacere, ci sono tutte le ragioni di questo mondo, dal punto di vista dei numeri funziona, tant'è vero che i diritti TV delle prossime Coppa Italia sono stati venduti a ben più soldi di quelli attuali. Precedenti, e quindi secondo me questo ha un significato, come avrebbe un significato giocare a Natale. It's Christmas time again. It's time to be nice to the people you can't stand. Perché la Serie B, che ha fatto due giornate a cavallo di Natale, il 23 e il 27 dicembre, ha fatto numeri negli stadi importanti, superiori rispetto alle medie normali. Noi ne abbiamo parlato alla vigilia di Natale, carissimo Franco, col presidente Abodi, che addirittura ha cominciato a dire: smettetele di parlare di esperimento. Ancora parlano alcuni di esperimento, ma ormai è diventata una tradizione, perché quando passano gli anni e gli appuntamenti comunque rimangono lì fissi nel calendario, ormai possiamo parlare di tradizione, è possibile farlo anche in Italia, recuperando le antiche abitudini. Perché non è vero che si è sempre fatti 20 giorni di pausa. Io ero un bambino, andavo allo stadio a Capodanno come regalo di fine anno, quindi evidentemente si poteva fare. No, poi c'è l'altro tema, quella è colpa dei calciatori. Il sindacato dei calciatori non vuole, perché vuole le ferie a Natale, eccetera. Abbiamo scoperto che non è così, a Bodi. Noi l'abbiamo chiesto, questo già fa la differenza. Ci abbiamo pensato, l'abbiamo chiesto a calciatori, allenatori, ne abbiamo parlato con gli arbitri, insomma, ci siamo parlati un po' all'interno, e alla fine i risultati sono stati buoni, e dopo appunto il primo esperimento abbiamo capito che poteva diventare una tradizione. Quindi è facile, no? Basta chiederlo, a Beretta, Tavecchio. Facile non credo. Il problema vero, secondo me, è quello che riguarda il calcio della Serie A e quindi la nazionale. io vorrei che chi fa l'elogio della iniziativa inglese con altrettanta sincerità poi ammetta che il calcio inglese, che fa tutto questo straordinario durante i mesi invernali, si ritrova poi con le gomme sgonfie e con le pile scariche tra maggio e giugno, quando c'è da giocare o un europeo o un mondiale. Però ad esempio la Serie B adesso fa la sosta per 20 giorni e nessuno dice niente, possono recuperare, certo, così, così si potrebbe costruire diversamente, così ha un senso, chissà se riusciamo a schiodarla questa cosa. Ad esempio il basket, il basket giocano. Riccardo Pittis, ciao Riccardo. Ciao, buongiorno a tutti. Giocano perché voi non avete mai preso in considerazione, no, l'idea a Natale di fermarsi. Credo che storicamente il basket giochi, o ricordo male? No, guarda, non ricordi male, tant'è che l'altro giorno in una sessione di formazione che stavo facendo elencavo i miei sacrifici, tra virgolette, chiamati così, nella sessione. Il sacrificio, uno dei quali era proprio l'aver festeggiato il mio primo Natale vero a 35 anni, cioè quando ho smesso di giocare, perché da quando appunto giocavo a basket il Natale lo passavo in palestra ad allenarmi, in quanto le partite di campionato, l'ultima era il 23 e quella successiva era il 27 / 28. Anzi, quindi si approfittava, perché poi la gente, come va al cinema, può andare al palazzetto, può andare allo stadio dopo il cenone, dopo il pranzo, no? Ieri sera io ero a Legnano a vedere una partita di A2, Legnano Basket contro Trieste, e devo dire che c'era nel palazzetto di Castellanza c'era il pienone, 2000 persone. C'era il pianone. Oh, prego. A Treviso, prego. Ecco, riprendo questo. A Treviso ieri si è giocato appunto nello stesso campionato di A2, c'erano 5.305 persone a vedere la partita. Che sono numeri della Serie A. Non c'erano nemmeno quando eravamo noi in Serie A, quindi si potete immaginare il clamore di un numero così importante. Mi parlano di un americano straordinario lì a Treviso. Pittis, ma non gioca più. Sì, ma non è americano, però. Esatto, sì, Pittis, ma non gioca. Senti, cosa sta dicendo invece il campionato? Visto l'altra sera Milano vincere a Cremona, discontinua, ma credo la più forte ancora, appena avrà ritrovato un po' di continuità. Ma allora, potenzialmente sì, potenzialmente Milano è la più forte da 4 campionati a questa parte, cioè da quando è terminata l'egemonia di Siena. Devo dire che l'ha sfruttata solo un anno. Questa stagione è bizzarra, quantomeno. Io mi ritrovo a commentarla per la Rai e di conseguenza ne ho la consapevolezza ogni settimana. E Milano, che è una delle potenziali pretendenti allo scudetto, è indubbiamente una squadra altalenante, potenzialmente la più forte, ma solo potenzialmente, perché poi ci sono almeno 3 o 4 squadre che in questo momento potrebbero quantomeno darle fastidio. Sì, anche se sulla lunga io faccio fatica a pensare che ci sia qualcuno che possa ripetere il miracolo di Sassari l'anno scorso, cioè sono cose che possono succedono un anno, però ad esempio Cremona, vista l'altra sera, quando poi Milano ha accelerato si è persa, Cremona era prima in classifica, Reggio Emilia, la stessa Sassari, hanno di tanto dei problemi di continuità anche loro, poi ci si chiede perché Milano abbia fallito in Europa, ma questo credo sia un tema aperto, Pittis, buono per tutte le stagioni. Allora, in Europa io non lo metterei neanche tra una sorpresa, tra la categoria sorprese, nel senso che purtroppo le squadre italiane da parecchio tempo in Europa contano davvero poco. Quest'anno, secondo me, rispetto all'anno scorso, il roster di Milano è sulla carta quantomeno inferiore. L'anno scorso la squadra di Milano potenzialmente avrebbe dovuto dominare in lungo e in largo, cosa che peraltro non è successa. Quest'anno ha delle caratteristiche diverse, quindi talentuosamente è inferiore, ma ha un aspetto che la squadra dell'anno scorso non aveva, cioè sa difendere, che è il fattore fondamentale per poi arrivare alla vittoria finale. E come dicevi giustamente tu prima, il fatto che alla lunga una panchina come quella di Milano, che non se la può permettere economicamente nessuno, potrebbe in un playoff fare la grande differenza. Può fare la differenza, questa diciamo è la scommessa. Grazie Riccardo. Figurati, grazie a voi. Grazie a Riccardo Pittis. Sei forte, continuate a credere che Milano sia la più forte. Ci fate un favore, Luigi da Reggio Emilia. Vabbè, insomma, magari poi alla fine il campionato dirà qualcosa di diverso. Noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Giovanni Melchiori in redazione, Pietro Lacorte in regia, Franco Ordine. Grazie a voi, è stato un piacere. Buon anno, Franco. Altrettanto. Noi però siamo sempre qui, torniamo domani dopo il GR delle 14, ancora anche con Pierluigi Pardo. Ciao.